as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui a Il Pane e Rose, Radio Città Fucigo 103.1, trasmissione degli operai metalmeccanici. Oggi puntata tecnica, puntata sul contratto interno dell'IMA. L'IMA ne conosciamo tutti qui a Bologna, per chi non lo sapesse è la più grande azienda del packaging, forse italiana, ma anche europea. Su questo aspetto è una multinazionale che fa un fatturato enorme. L'azienda di Alberto Vacchi, ex presidente di Confindustria Emilia Romagna, oggi Cavaliere, un'azienda che durante la pandemia ha fatturato tantissimi soldi, visto che ha prodotto macchine sia per fare le mascherine, ma soprattutto per imballare i vaccini. Oggi parleremo con Davide Bacchelli, delegato della FIOM dell'IMA, di questo contratto. Luci e ombre, poi ne parleremo alle conclusioni di come è andata. Ci sentiamo dopo per le conclusioni. Sorgiamo come il sole al mattino. Sorgiamo come il sole al mattino. Se non lotti che uomo sei. 5 4 3 2 1 0 6. Siamo qui con Davide Bacchelli, delegato della FIOM dell'IMA Bologna, azienda importantissima. Rinnovo del contratto ormai da un bel po', in realtà è stato siglato, ma sono state da poco fatte le assemblee e adesso ci facciamo raccontare da Bacco un po' quello che com'è andata questo accordo, la sua posizione critica a questo accordo. Comunque ci illustrerà dal suo punto di vista l'accordo IMA, che un accordo chiaramente importante nel territorio di Bologna. Parliamo della più grossa azienda che c'è oggi di packaging a Bologna, per questo abbiamo intervistato. Allora Davide, raccontaci un po' di come è andata questa trattativa, dei contenuti, insomma anche la tua posizione. Beh, innanzitutto un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori della trasmissione. Beh, innanzitutto è stata una vicenda piuttosto lunga, perché la piattaforma è stata approvata nel febbraio del 2020, praticamente poco prima che scoppiasse la pandemia, e questo naturalmente ha condizionato tutto il percorso, tant'è vero che questo rinnovo, che doveva riguardare gli anni 20, 21, 22, in realtà è andato a rinnovare per gli anni 21, 22, 23 e fra l'altro appunto con un anno, diciamo, non retrattivo, ma che ha raccolto insieme al 20 l'ultrattività del contratto dell'integrativo precedente. È stato un percorso particolare, perché allo stesso tempo in IMA abbiamo due contratti integrativi, uno generale e uno che riguarda i trasfertisti, e questo percorso è iniziato innanzitutto dando precedenza al contratto generale, e questa cosa è stata fatta votare dai trasfertisti, perché in un'azienda di macchine automatiche come l'IMA, ma così come la GD, come tutte le altre aziende, i trasfertisti insieme ai settori, diciamo, agli uffici tecnici, sono i settori portanti dell'azienda, non che gli altri siano meno importanti, però soprattutto quello dei trasfertisti, per una storia interna, sempre ha avuto delle dinamiche di rinnovo particolari, per cui era importante innanzitutto dare precedenza a quello generale, anche per evitare appunto che ci fossero dei cortocircuiti che ad esempio in passato, quando furono unificati in GD, portarono a un rinnovo che è durato 6 mesi. Qui è vero, parliamo di 2 anni, ma in mezzo appunto abbiamo avuto la pandemia, quindi tutta una situazione particolare. È stato un percorso, innanzitutto, che ha visto dei passaggi importanti, perché appunto trovandoci il fatto che sostanzialmente il 2020 era perduto, siamo riusciti a mantenere l'ultrattività del contratto precedente, che ci interessava soprattutto per quanto riguarda il premio di risultato. E allo stesso tempo un altro fattore fondamentale che a fine del 2020 abbiamo preservato, questo è stato importante, è il fatto che di mantenere la scadenza della strutturazione di parte del premio di risultato alla sua scadenza naturale. Non la faccio molto lunga, però sostanzialmente se avessimo seguito il percorso di tutto il contratto c'era il rischio di perdere, che ogni lavoratore perdesse grosso modo 1.000.000 di euro per un anno. Ecco. Non voglio dilungarmi troppo sulle descrizioni, però appunto dato di fatto è che il percorso è stato lungo, è ripreso sostanzialmente dopo l'estate del 2021 con una serie di incontri. Abbiamo avuto ben qualcosa come 14 incontri con l'azienda in 6 mesi, e che la pandemia ha condizionato non solo per i tempi ma anche per i contenuti. Perché? Perché c'è stato un boom sostanzialmente in IMA, e questo è un aspetto che può avere una ricaduta generale, riguardo all'utilizzo non solo dello smart working, dove l'azienda, se fosse per lei, non l'avrebbe mai applicato, questo l'hanno sempre detto, non l'hanno mai nascosto, ma è emerso un'altra forma di lavoro, cioè il lavoro da remoto. E il lavoro da remoto non è lo smart working che lo incluse, il lavoro da remoto è sostanzialmente, e la parte centrale, cioè la sostituzione di ciò che i lavoratori facevano in trasferta, con il fatto di attraverso tecnologie di realtà virtuale, realtà aumentata, il fatto di guidare un altro lavoratore a distanza. E questo aspetto, soprattutto nel settore in cui io lavoro, che non a caso è anche il settore che si occupa delle macchine per il confezionamento dei vaccini, e in questo settore abbiamo visto svilupparsi nel tempo questa attività, che sostanzialmente vede anche appunto il lavoratore in IMA attraverso appunto anche dei sistemi tipo gli HoloLens agire sulla macchina a distanza, oppure comandare a distanza un lavoratore IMA di una succursale oppure il cliente. Qual è il problema? Il problema è che parliamo di impianti complessi, di situazioni in cui anche i rischi di infortuni ci possono essere, anche perché molti di questi impianti sono in aziende in Cina o in India, dove la questione sicurezza, potete ben immaginare, purtroppo è quella che è. E anche il fatto che soprattutto quando tu devi fare un intervento in quei paesi devi considerare anche i fusi orari diversi. La lingua immagino. La lingua, il problema grosso della lingua, l'hanno sollevato i lavoratori che lo fanno, perché questa discussione è stata alimentata soprattutto da questo aspetto. Tant'è vero, e questo l'abbiamo ottenuto, che comunque chi farà questi lavori deve avere una ottima conoscenza della lingua, ma soprattutto abbiamo definito che il livello minimo professionale deve essere il vecchio Quinta Super, che fra l'altro, aperta parentesi, è una professionalità estremamente diffusa in IMA. Perché mi sto soffermando su questo punto? Perché questo punto ha caratterizzato, è stato uno dei nodi centrali della questione. Perché a un certo punto, passato il tempo, bisognava prendere una decisione, cioè dire su quali punti concentrare il rinnovo dell'integrativo. E sono stati definiti quelli che ai lavoratori abbiamo presentato come 4 pilastri per avere un buon contratto. Ovvero sia questa questione che spiegavo dell'assistenza da remoto, la flessibilità degli orari, abbiamo fatto richieste per allargare l'orario di ingresso flessibile, e allo stesso tempo quindi anche l'orario d'uscita flessibile dopo le 8 ore. Abbiamo chiesto anche una flessibilità nella pausa pranzo, mentre, e anticipo uno di quei risultati ottenuti che ha soddisfatto, cioè il fatto di poterla portare da 1 ora 45 minuti, laddove c'è un sistema di mense che lo permette e laddove i lavoratori, ed è quello che è stato fatto, approvassero nei singoli stabilimenti questo cambio di orario. Altro aspetto, anche lo smart working, come dicevo l'azienda era contraria, la pandemia ha costretto l'azienda a sperimentarlo. Su questo abbiamo avuto un accordo emergenziale legato soprattutto a lavoratori con certe caratteristiche. Nell'integrativo sostanzialmente ha ripreso questo accordo, ma con una premessa importante, che lo smart working può essere richiesto da ogni lavoratore che fa un'attività compatibile con lo smart working. Ci sono anche lì delle precedenze e abbiamo ottenuto, non è stata la cosa più importante, ma è stato un passo avanti, il fatto che per chi fa smart working tutta la giornata, ma solo i full time, e purtroppo questo tiene fuori part time, per essi venisse riconosciuto un buono pasto di 5 euro al giorno. E l'ultimo punto centrale è chiaramente il premio di risultato. E sul premio di risultato, appunto, la richiesta in piattaforma era di portarlo da un massimo di 2.200 a un massimo di 2.700 euro, legato a vari fattori variabili, alcuni abbiamo definito qualitativi, sebbene siano anch'essi quantitativi, ma sono legati a risultati abbastanza certi o comunque risultati che in IMA, se non si ottengono, vuol dire che ci sono dei problemi che vanno ben al di là di un rinnovo dell'integrativo, e poi legati al bilancio. Perché mi sono concentrato su questi quattro aspetti? Perché a un certo punto la trattativa è arrivata a una svolta, in cui, appunto, 14 incontri, però dopo 12 incontri con l'azienda non si riusciva ad arrivare a un risultato soddisfacente. C'è stata anche una ristretta che solitamente in quelli che sono, diciamo, i percorsi tradizionali, ecco, tra parentesi, dovrebbe essere un momento risolutivo, però va detto che da quella ristretta il risultato che è uscito non ha soddisfatto la maggioranza dei delegati, e a questo punto si è fatta una scelta precisa e coerente, cioè si è passati, qui stiamo parlando metà di novembre, si è passati al fatto di iniziare a proclamare lo sciopero degli straordinari e di certe flessibilità, e poi per il 3 di dicembre si è proclamato uno sciopero di 8 ore. Uno sciopero di 8 ore che è stato proclamato partendo dalla presentazione nelle varie assemblee. Parliamo di un'azienda con oltre 2.000 dipendenti in una dozzina, grosso modo, di stabilimenti, appunto. Si è arrivati a dare mandato all'RSU e chiaramente ai sindacati che su questi quattro punti centrali si arrivasse alla mobilitazione, quindi abbiamo proclamato per il 3 di dicembre uno sciopero sull'integrativo, e in IMA stiamo parlando che scioperi su questioni interne importanti non si vedevano da oltre 20 anni. Perché? Perché solitamente si è arrivati a dei risultati soddisfacenti attraverso, diciamo, quello, diciamo, che userei il termine a chiacchiere, perché nelle assemblee abbiamo detto: guardate, noi le discussioni le abbiamo fatte, alcuni risultati sono stati ottenuti, come dicevo prima, anche a fine 2020 sul riguardo allo strutturale, quindi, cioè, un impegno da parte dell'RSU e dei sindacati per riuscire, insomma, a risolvere sul tavolo delle trattative, però, appunto, a un certo punto bisogna fare questa scelta, che si è dimostrata corretta, perché lo sciopero è riuscito. E per farla breve su questo punto, da che cosa abbiamo capito che è riuscito? Perché di solito con l'azienda siamo sempre riusciti ad avere le percentuali, i numeri di chi aderiva agli scioperi, magari dopo una settimana. In questo caso non ci sono mai arrivati i numeri, e questo per noi ha rappresentato una conferma che lo sciopero era riuscito, ma anche il fatto che ci sono stati degli spostamenti dopo lo sciopero. Però, appunto, qui sono iniziati, appunto, i problemi che sono rimasti sul campo. Perché? Perché sostanzialmente, appunto, dopo lo sciopero ci sono stati uno o due incontri, non ricordo, però sostanzialmente l'RSU poi il 14 di dicembre ha deciso a maggioranza, però una maggioranza stretta, siamo 39 delegati e di questi poco più della metà, 21-22, hanno detto che era accettabile e quindi siamo arrivati chiaramente a questo punto a un'ipotesi di accordo da presentare nelle assemblee. Io come altri delegati, tra cui 3 della FIM e 11 della FIOM, che non eravamo d'accordo, alcuni di noi legittimamente non hanno firmato, io tra loro, l'ipotesi di accordo. Perché sebbene, questo va ricordato, secondo le regole contrattuali, no, sancite nel 2014 del 10 gennaio, in teoria basterebbe il voto dell'RSU a maggioranza per dire che un accordo è corretto. Però giustamente, soprattutto la FIOM ha mantenuto correttamente la pratica di passare dai referendum, cosa condivisa da FIM e UIM, che sono assolutamente minoritarie, per cui appunto poi sono iniziate le assemblee e qui appunto le ragioni del no. Perché allora, innanzitutto, le ragioni del no ricadono sui punti che riteniamo più importanti dei 4 pilastri che ho detto, e che non sono state chiaramente le uniche richieste in piattaforma, che è molto ricca. Però appunto sull'assistenza da remoto noi avevamo chiesto che ci fosse un'indennità a seconda degli orari in cui viene fatto, perché legata a questo c'è stata anche la questione della reperibilità, perché uno dei business che sta crescendo soprattutto nel settore dell'IMA, che si occupa tra gli altri dei vaccini ma che verrà diffuso, è l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che è un sistema che sta portando molti profitti e che è legato al lavoro da remoto. E da questo punto di vista appunto l'azienda ha detto, visto che durante l'orario normale di lavoro un lavoratore deve fare la sua attività e che fare l'attività da remoto in realtà è solamente uno strumento diverso con cui fare la stessa attività, saremmo disposti a riconoscere una piccola indennità solamente ai montatori e ai collaudatori che venissero coinvolti. Noi avevamo chiesto 8 euro l'ora, lordi, chiaramente. L'azienda era disposta ad arrivare a 4, poteva essere un buon compromesso, però c'era un problema politico, che per noi chiunque, a prescindere dal ruolo per cui è stato assunto, fa una certa attività, deve essere appunto pagata allo stesso modo. Per cui appunto politicamente non potevamo accettare che solo i montatori e i collaudatori avessero questi 4 euro, però l'azienda ha detto vabbè, se deve essere per tutti, a questo punto non riconosco nelle 8 ore normali nessun tipo di indennità, me le riconosco solamente se viene fatto fuori, diciamo, dalla fascia oraria che consideriamo normale, che è dalle 7 di mattina alle 8 di sera, però in particolare appunto sui turni e a livello notturno. L'altro problema è stato sulla reperibilità. Perché? Perché la reperibilità, l'azienda, la proposta dell'RSU era che al massimo venisse fatta su 6 giorni su 30, in regime di volontarietà, l'azienda ha detto 15 giorni su 30, e alla fine il premio di risultato. Ecco, il premio di risultato, se uno guardasse la cifra tonda, noi abbiamo chiesto 2007 e uno guarda l'accordo, sono 2007. Qual è il problema? Il problema è che mentre di solito metà di questo in passato era legato appunto a quegli elementi che ho definito qualitativi, diciamo più certi, qui, e quindi sarebbero stati 1.350, addirittura adesso di quei 2.007 ben 1.600 sono legati ai risultati economici, ma soprattutto di quei, dentro quei 1.600 ce ne sono 400 che è una nuova voce chiamata premio di piano industriale, che è legato ai risultati di utili che il consiglio di amministrazione si attende per ogni anno, e stiamo parlando per i prossimi due anni di 350 milioni su un fatturato di poco maggiore di 1,7 miliardi e di 400 milioni su un fatturato che dovrebbe sfiorare appunto i 2 miliardi di irraggiungibile, praticamente difficilmente raggiungibile. Faccio l'ultimissima considerazione: pochi anni fa il dottor Vacchi, presidente dell'IMA, si sarebbe aspettato per un risultato, per un fatturato di 2 miliardi utili 250 milioni, certo. Oggi si parla di 400, e quindi questi aspetti hanno ritenuto che, pur riconoscendo appunto che lo sciopero ha portato dei passi avanti, ma proprio perché i passi avanti si possono fare con lo sciopero, appunto noi abbiamo fatto una campagna per appunto per dire no e per quindi tornare al tavolo. Come è andata la campagna? Com'è andata? La questione è che, appunto, come dicevo, il 14 dicembre del 2021 è stato siglato l'ipotesi d'accordo, e che con la recrudescenza della pandemia, le ferie di Natale, eccetera, cioè per fare tutto il giro di assemblee, abbiamo iniziato a fare assemblee il 2 di febbraio, quindi a un mese, a due mesi dallo sciopero. E le votazioni sono finite il 14 di marzo, esattamente. Il tempo ha un peso e ha inciso parecchio sui lavoratori. In ogni caso, anche pur avendo pesato, in mezzo c'è stata anche l'elargizione di 250 euro di buoni a copertura della vacanza contrattuale del 2021, e su questo l'azienda gli ha erogati, comunicando che, appunto, con l'auspicio di un risultato positivo del referendum, questa cosa ha fatto incazzare qualche lavoratore. In ogni caso abbiamo avuto il 28% dei lavoratori che ha detto di no, che è esattamente il doppio, se non più del doppio, di quelli che di solito dicevano di no. Ma sappiamo chi sono questi lavoratori. Questi lavoratori sono quelli che saranno sicuramente interessati dal lavoro da remoto. Ok, Davide, abbiamo capito, la piattaforma, sì, ci aspettavamo qualcosa di più da Lima, la questione del premio di risultato, certamente da uno come Vacchi non ce l'aspettavamo, un giochetto del genere. Chiaramente è venuto incontro alla vostra richiesta, però ha reso quasi impossibile raggiungere il 100%. Questo sicuramente ha fatto arrabbiare. Il lavoro in remoto, conosciamo benissimo la questione dei lavoratori dell'IMA e capiamo anche le problematiche, anche di tipo economico, che hanno. Ti salutiamo, ti ringraziamo, in bocca al lupo. Sarà per la lotta continua, immagino. Ma più che la lotta, stiamo già vedendo una cosa che personalmente mi aspettavo, che riguarda le due novità sostanziali, smart working e lavoro da remoto. Sullo smart working l'azienda ha concesso, abbiamo raggiunto direi il risultato pieno. Sul lavoro da remoto ho già spiegato, però stiamo già vedendo una cosa: iniziano le richieste per lo smart working e l'azienda sta facendo muro, sta facendo resistente. Perché questo? Perché lo smart working interessa i lavoratori, i vari capi stanno iniziando a porre questioni organizzative. Vogliamo i lavoratori qua, insomma, adesso andare a cercare le ragioni. Hanno paura di perdere il posto anche. Hanno paura di perdere il controllo, ma mentre il lavoro da remoto è una cosa che vuole l'azienda, è una cosa che chiederà con sempre maggior forza, ma soprattutto è una novità che, se funzionerà in IMA, è destinata a essere diffusa. Ma perché? Anche perché i trasfertisti costano ma allo stesso tempo, con tutte le loro caratteristiche, le loro contraddizioni, però l'azienda deve rendersi conto che un trasfertista, io non lo sono assolutamente, però un trasfertista è l'azienda davanti al cliente, e questa cosa sembra proprio che Lima l'abbia dimenticata. Ma perché? Qui faccio una considerazione: Lima è cambiata, è entrato un fondo che è proprietario del 49% dell'Lima. I piani di Vacchi sono piani che vanno al di là dell'Italia. Lima è uscita dalla borsa di Milano perché in pochi anni, al massimo entro i prossimi tre, vuole e questo a detta di Vacchi, vuole acquisire una grossa realtà poco più piccola dell'IMA da controllare per entrare dentro alla borsa americana. E questa è la prospettiva, e queste cose stanno pesando in un'azienda che, come molte altre, l'anno scorso ha fatto livelli di profitti mai raggiunti nel passato. L'IMA sta cambiando, è il momento che i lavoratori che sono sempre stati considerati aristocrazia operaia di Bologna devono cambiare anche loro, altrimenti verranno travolti. Ma esatto, questo è l'insegnamento. Ci sono molti giovani, è un'azienda che sta assumendo, però appunto le potenzialità ci sono, e io credo che sarà proprio comunque la gestione dell'integrativo l'impegno più grande. E come compagni di giornate di marzo, che abbiamo fatto appunto la campagna per il no attraverso un volantino qui a Bologna, anche nello stabilimento di Parma, grazie ai compagni che abbiamo a Parma, anche se non sono dell'IMA, però appunto credo che dovremmo essere in prima linea per la migliore gestione di questo integrativo, dimostrando che un delegato, come la mia esperienza mi insegna, ma credo come debba insegna l'esperienza di tutti, quando poi i lavoratori decidono deve muoversi secondo le decisioni dei lavoratori e fare in modo di ottenere il meglio dagli avanzamenti che ci sono, ma soprattutto evitare le gestioni unilaterali da parte dell'azienda, gli abusi da parte dell'azienda. E questo è appunto, chiudo qui dando questo consiglio a tutti i delegati, a partire da quelli che come me hanno votato no, perché questo è stato un passaggio, e quando i lavoratori decidono comunque non deve essere considerata una sconfitta, ma un'occasione, perché comunque il fatto stesso della riuscita di uno sciopero in IMA sarebbe stato un grosso risultato politico in sé. Però non bastano i risultati politici, dietro ci vogliono i risultati concreti. Ok, ti ringrazio e ci sentiamo presto io e te, Davide. Alla prossima. D'accordo. Grazie. Abbiamo ascoltato la posizione di Davide Bacchelli, di delegati che hanno votato no. Chiaramente una parte dei delegati hanno votato sì. Questo accordo prevede tantissime cose positive, è un accordo che il 99% dei metalmeccanici avrebbero votato tutti a favore. Chiaramente stiamo parlando dell'aristocrazia operaia, non solo bolognese ma anche italiana, e di un'azienda che veramente fattura miliardi, e chiaramente i salari sono molto molto alti. Sono i salari più alti che abbiamo nella provincia di Bologna, ma penso che sono a livelli altissimi anche in Italia. Chiaramente i lavoratori si aspettano tanto, e una parte di questi lavoratori è rimasta colpita. L'IMA non è più l'IMA di una volta. I lavoratori lo stanno capendo, in pandemia l'hanno visto questo, come si è comportata l'azienda. L'azienda è diventata una multinazionale quotata in borsa, è ragionata multinazionale, è entrato un fondo e le cose stanno cambiando. I lavoratori vengono spremuti anche se fanno fatturati, e i soldi che una volta venivano dati non è che non vengono più dati, ma fondamentalmente adesso è un'azienda molto molto più meno familiare, ecco. E i lavoratori si stanno accorgendo di questo e stanno cambiando anche gli atteggiamenti verso l'azienda. Speriamo che si sveglino i lavoratori dell'IMA e cominciano a capire che non è più l'azienda di una volta, è un'azienda che fa i suoi interessi e non gli interessi dei lavoratori. Questo noi lo sapevamo già, però io dico ai lavoratori dell'IMA che hanno le capacità, le potenzialità e la forza per poter riprendersi quello che non sono riuscito a ottenere in questo contratto, e auguro un in bocca al lupo. È importantissimo questa puntata perché parla del lavoro in remoto, non degli impiegati ma degli operai. Io penso che questo sia il futuro e dovremo affrontarlo, e quelli, i compagni dell'IMA saranno quelli che io penso saranno più in grado, se uniranno le forze, di affrontare questo argomento e cercare di risolverlo in qualche modo. Salve a tutti, alla prossima puntata. sorgiamo, sorgiamo.